per il 2010. Fat MC, Lil Vac, state attenti a tutto quello che c'è in giro, a chi vuole fermare questi hip hop. Sono peggio degli Spears. Chiudo la porta dello studio, sono con Vac, mi stanno dietro. Questi stronzi bastonari senza niente di concreto. Chiederanno documenti, liriche, travestimenti. Dirò che non sono un rapper col sorriso a 30 dentro. Hanno già fermato Mista, Gesto ed altri tanti rapper. Ma per me non si scommette, punta solo su chi smette. Col passo disinvolto mi allontano dal portone. Ce n'è un altro che mi osserva, travestito da barbone. Vado avanti, faccio finta che non sia successo niente. È l'anti-rap, mi sta dietro e si nasconde tra la gente. Sono un nucleo operativo che distrugge la cultura. Chiude in cieli, vei MC per commerciare spazzatura. E qua è dura per quelli come me che sono veri, quelli che non stanno in giro a fare i bulli dei quartieri, quelli che scrivono un suono che è vietato dalla massa. Tuo cuore sulla carta e la faccia sotto la cassa. È il nucleo operativo anti-rapper. Qua la gente scrive merda ma non ci scommette. Ti ha mandato in estinzione anti-rap in azione. Tieni duro sotto terra, cerca la tua soluzione. È il nucleo operativo anti-rapper. Qua la gente scrive merda ma non ci scommette. Ti ha mandato in estinzione anti-rap in azione. C'è chi tiene ancora duro mascherando il proprio nome. L'ho mascherato dai tempi dell'hip hop in italiano. Mi persona il personaggio, lo scenario quotidiano. L'antirap adesso sa com'è composta la mia faccia. Hanno analizzato i suoni della voce, suoni traccia. Mi schiaccia, non puoi fuggire ma ti stanno attorno. Come branchi di avvoltoi nel deserto a mezzogiorno. Stanno lì per guardare i passi falsi che farai. Sono stronzi visionari perché non mi avranno mai. E sai, sono solo una persona un po' più sveglia. Lo stronzo che mi sta dietro ma intanto non mi briglia. Sparo pallottole sui fogli di papiro e vi mummifico gli infami come in Cina Nastemiro. Quindi inclino, labiro e sopravvivo un giorno ancora. Lento passo, salto sempre, l'antirap mi sta a gola. Poi ne voglio uno solo, questa notte dopo addio. Hanno fatto male i calcoli, quello non sono io. È il nucleo operativo anti-rapper. Qua la gente scrive merda ma non ci scommette. Ti ha mandato in estinzione anti-rap in azione. Tieni duro sotto terra, cerca la tua soluzione. È il nucleo operativo anti-rapper. Qua la gente scrive merda ma non ci scommette. Scommette, ti ha mandato in estinzione anti-rap in azione. C'è chi viene ancora duro mascherando il proprio nome. Yo, è così che si fa. Bisogna tenerlo vero, tenerlo come le origini. Fat MC, Lil Vac, 2010, l'anello.